Ricordate, in questo caso A and B equivale a scrivere vero and falso. E con AND serve vero and vero per avere un risultato positivo. Vero and falso sarà quindi vero o falso.